Non è questo, voi non state capendo del resto, nemmeno state chiedendo se non lo stareste ancora perdendo il vostro tempo con futili pensieri. Ma deparliamone, mi spiego volentieri, ma aspetta, ti stai basando su teorie gestuali che manco conosci. Ti perdi in immensi meandri di mondi su cosci dai quali dipendi ma non lo capisci. Io preferisco capire le microespressioni tramite le quali i vostri trasmettono le loro emozioni. Metto a ferro e fuoco i vostri pensieri e penso alle vostre nozioni, a monancore di salvezza tipo vecchie pensioni. Tu cerchi risposte a domande non poste a priori a causa di una scarsa concezione delle comunicazioni. Io indago, vago tra i gesti, da quello più vago a quelli più lesti, noto i cambiamenti nei comportamenti spesso diversi. Ma adesso dovresti capire che la telepatia esiste, ma il tuo Dio non la concepisce. Nella mia mente tu non ci leggi, nella mia mente tu non ci leggi, nella mia mente tu non ci leggi, nella mia mente tu non ci leggi, nella mia mente tu non ci leggi.